Euroreportage. La campagna di Russia dell'agroalimentare europeo, di Laura Bettini. La Russia non è più quella di una volta, e nemmeno Mosca, non più grigia e sovietica, ma sfavillante e opulenta. Ma non è più nemmeno quella di 2 anni fa, quando in quest'area metropolitana da 18 milioni di abitanti, di cui 1 milione di ricchi, si consumavano regolarmente prodotti alimentari europei, con crescente passione per il Made in Italy. Formaggi, salumi, verdure, frutta comparivano regolarmente sulle tavole dei moscoviti e dei russi in genere, fino alla rivoluzione ucraina del 2014 e all'imposizione europea di sanzioni nei confronti della Russia, nei settori finanziario, dell'energia, della difesa, cui il presidente russo Putin decise di rispondere con un ukaz, un decreto con cui proibì l'importazione di alcuni prodotti alimentari europei e americani. Carne, pesce fresco, latte, latticini, ortaggi, frutta e noci insaccati. Sanzioni rinnovate da entrambe le parti fino almeno alla prossima estate. È per questo che al Prodexpo, la principale fiera alimentare del paese, quest'anno la partecipazione europea è scarsissima. 2 anni fa, per fare un esempio, le aziende italiane che presentavano ai russi i loro prodotti erano diverse decine. Quest'anno non arrivano a 20. Tommaso Ferrazzoli, della Universal Marketing, che organizza la partecipazione italiana a varie fiere alimentari e non nel mondo. Questa è la 7ª edizione che lavoriamo per Prodexpo. È una manifestazione che ha avuto sempre degli ottimi numeri a livello di partecipazione italiana. Storicamente siamo stati in grado di organizzare collettive italiane che avevano un 40-50 espositori. La partecipazione italiana che continua ancora ad essere presente a Prodexpo è maggiormente dedicata al settore dei vini, dei distillati, però gli altri prodotti, essendo sotto embargo, ovviamente non vengono più ad esporre a questa manifestazione. Ambrogio Manzi è per l'appunto il direttore dell'Enoteca regionale dell'Emilia-Romagna. Da 15 anni frequenta il Prodexpo. È chiaro che oggi mantenere le posizioni è già un gran successo. Secondo me non si può pretendere, ma lo sanno benissimo anche le aziende, crescere in questa difficoltà, anche perché i prezzi di fatto con la svalutazione del rublo di fatto sono aumentati, e quindi andando a colpire chiaramente il ceto medio, che è il consumatore ideale per tutti i mercati, anche qui chiaramente capisce che costerebbe il doppio una bottiglia. Questo per forza di cose dà qualche difficoltà, però alcune aziende mantengono gli stessi numeri dell'anno scorso, il che vuol dire che è un successo. Ma non tutti la pensano così. Gianfranco Paladino rappresenta il consorzio siciliano Ex Wine. La fiera praticamente si è svuotata dall'Italia, si è svuotata di gran parte degli operatori europei. Quindi c'è poca Francia, poca Spagna, poco Portogallo, ecco, che fino a 2 anni fa erano molto molto presenti. Occupavano quasi per intero questo padiglione. Voi perché siete rimasti? Noi siamo rimasti perché abbiamo il vincolo dell'OCM promozione, quindi per 3 anni comunque dobbiamo tornarci. E poi comunque sicuramente il mercato dovrà riprendersi, quindi essere presenti oggi significa acquisire un vantaggio domani. Non si lamenta, nonostante le perdite, Roberto Guardigli, direttore di 4 Ru Impex, importatori di vino sul mercato russo da anni. Personalmente non ci possiamo lamentare più di tanto, in quanto abbiamo ottenuto un meno 35% rispetto all'anno precedente sui volumi e sul valore dei prodotti esportati. Siamo qui principalmente per mantenere le posizioni, non allargarle più di tanto, perché comunque è un mercato attualmente in fase di contrazione. Disperati nel presente, futuri nel futuro. L'enologo Flavio Acornero Sebastiano, che lavora anche con 4 Ru Impex, ha l'aria di uno che sa pazientare. Questi anni che seguo la Russia abbiamo visto fasi alterne susseguirsi, quindi ci sono stati momenti in cui, dovute a diverse crisi, il mercato ha avuto dei problemi. Ci sono stati momenti di grande espansione, adesso siamo in una fase di contrazione, ma chi opera seriamente deve seguire i mercati nelle loro fasi. Il settore di Paolo Dalla Giovanna è un altro, la farina. Anche questa fuori dall'embargo, e sembra che nulla lo spaventi. Questo non è il primo anno, è il secondo e non sarà l'ultima volta, perché per noi essere qui è molto importante. La cosa vi ha dato quindi soddisfazione, nonostante questo sia un periodo non facile per la Russia? Molto, molto. Andiamo dove insomma gli altri si stanno ritirando, e noi vediamo molto, abbiamo molta fiducia in questo mercato. Il vero problema non è l'embargo, ma il crollo del prezzo del petrolio e la debolezza del rublo, sostiene Roberto Lyon, direttore generale di HDS Food Service, che produce e distribuisce specialità italiane in scatola. Oggi in realtà, parlo soprattutto della ristorazione a Mosca ad esempio, c'è stata una fortissima caduta della qualità dei prodotti, perché a parità di prodotto il costo di preparazione di un alimento è raddoppiato nell'ultimo anno. Avete cercato di tenere il passo, diciamo, col mercato della Russia con delle produzioni magari che fossero un po' meno dispendiose? Allora, non abbiamo fatto compromessi sulla qualità, quindi noi abbiamo preferito aprire l'ombrello, come si dice in gergo. Sarà perché il rublo vale noccioline, ma più che comprare il prodotto finito, i russi quest'anno sono interessati a comprare il semilavorato o le tecnologie per produrre. Pierluigi Medici, export manager del gruppo Cevico Medici Ermete. Noi, per quanto riguarda il settore vinicolo, abbiamo richieste di prodotto sfuso, perché i russi stanno investendo molto in cantine, soprattutto nella parte meridionale della Russia, quindi stanno investendo sulla produzione locale, quindi chiedono questo tipo di collaborazione, cioè la possibilità di avere il prodotto sfuso da imbottigliare in Russia e logicamente anche una consulenza a livello tecnologico. La questione del vino sfuso genera discussione ovunque la si nomini. Pur di vendere, sì. Se riusciamo a vendere, l'importante è che ci sia margine. Altri invece sono assolutamente per il no, nel timore che una mano inesperta rovini il Made in Italy e la sua fama. In Russia siamo primi per esportazione di vino e pasta, nonostante tutto. Secondi per olive e acqua, terzi per prodotti da forno. Con l'embargo abbiamo perso molto, ma sempre meno di altri competitor europei. La perdita dell'import di settore alla fine del 2014 è stata per la Germania del 22,8%, per i Paesi Bassi del 20,8%, per la Francia del 17,2%, per l'Italia dell'8,3%. Lasciare ad altri il compito di maneggiare i nostri prodotti è quindi un rischio che pochi vogliono correre, oltretutto ora, con le sanzioni, quando i russi si stanno attrezzando e abituando ad altri sapori non originali. Yeah, we started to produce the cheese like mozzarella, ricotta, mascarpone. È Alexei Martinenko, amministratore delegato di Umalat. In 7 anni ha messo in piedi un piccolo impero del formaggio fresco dal nome italiano. Produce ricotta, mascarpone, mozzarella, perché sono nomi non protetti, dice. Non fingo mica che sia mozzarella di bufala campana. Le macchine per la produzione le ha comprate in Italia e poi ha solo lavorato sodo. Come potrebbero fare altri, esorta Pierpaolo Celeste, direttore dell'agenzia ICE di Mosca. È un paese quindi che si è dato un programma di sostituzione delle importazioni. Perché venire a investire qui? C'è la grande attrazione di un cambio rublo-euro che permette un investimento a più del 50% di meno di quello che poteva essere un anno e mezzo fa. E questa è la prima motivazione. La seconda può essere l'energia, forse, che ha un prezzo competitivo anche, no? Sì, molto competitivo. Terzo, la corsa delle regioni e alcune delle più di 85 entità amministrative sono particolarmente agguerrite all'attrazione di investimenti esteri. Guardandosi le spalle dall'altro grande spauracchio di questa fiera, non il petrolio, non il rublo, né l'Ucraina, ma l'allarmante possibilità per i produttori che l'Unione Europea metta mano alla lista dei vini protetti, togliendo da lì quelli che prendono il nome dal vitigno, come Lambrusco o Vermentino, perché, dice la Commissione, non è il vitigno tutelabile, ma semmai un marchio. Volendo, chiunque può coltivare quel vitigno. È la stessa questione del pomodoro San Marzano, ed è severissimo in proposito il presidente di Federalimentare, Luigi Scordamaglia, anche lui in visita al Prodexpo di Mosca. L'evento San Marzano, come altre situazioni, sono la conseguenza di una protezione inadeguata dei nostri prodotti. I nostri prodotti, quelli che si fanno solo in Italia, si fanno in Italia e punto. E quindi dobbiamo semmai migliorare, incrementare lo strumento di tutela delle nostre produzioni. un limite ben preciso, cioè noi creiamo valore aggiunto e questi prodotti a valore aggiunto si fanno solo in Italia e si esportano, si tutelano e si esportano. Quello che andiamo a fare lì, ripeto, sono commodity che noi in Italia non facciamo. Quindi non andiamo a fare San Marzano, ecco, nel Caucaso. Assolutamente no, perché non avrebbe alcun senso e perché svalorizzerebbe lo stesso San Marzano. La Russia certo lavora con tutti in Europa, ma un'apertura di credito l'ha certamente riservata all'Italia, scelta come paese ospite al Forum Economico di San Pietroburgo in programma a giugno. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.